Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Reduce da quel suo pellegrinaggio a Roma, da cui tanta gioia e tanta luce di sogni gloriosi s'era promesso di portare a Balsania per i suoi ultimi giorni, Mauro Mortara, dopo la visita a donna Caterina Laurentano, morente, a testa bassa, senza rischiar neppure un'occhiata intorno, quasi avesse temuto d'essere deriso dagli alberi ai quali per tanti anni aveva parlato delle sue avventure, della grandezza e della potenza derivate alla patria dall'opera dei vecchi suoi compagni di cospirazione, d'esilio, di guerra. Era andato a cacciarsi nella sua stanza a terreno, come nel suo covo una fiera ferita a morte. Invano Don Cosmo per circa una settimana aveva cercato di scuoterlo, di farlo parlare, compreso di quella sua pietà sconsolata per tutti coloro che, giustamente, rifuggivano dal rimedio che egli aveva trovato per guarire d'ogni male. Alle sue insistenze che almeno salisse alla villa per il desinare e la cena, Mauro aveva risposto scrollandosi: «Corpo de Dio, lasciatemi stare! E che mangi? Le mani, ma mangio! Andatevene!» In un modo più spiccio e più brusco, il giorno dopo il suo arrivo, aveva risposto ai colombi, che durante la sua assenza erano stati governati due volte al giorno, all'ora solita, dal curatolo Vanni di Ninfa. «Bem, bem!» Due schioppettate in aria e li aveva dispersi con fragoroso scompiglio. Né migliore accoglienza aveva fatto alla festa dei tre mastini, quasi impazziti dalla gioia di rivederlo. La placida immobilità dei vecchi oggetti della stanza, impregnati tutti di un lezzo quasi ferino, i quali parevano in attesa che gli riprendesse tra loro la vita consueta, gli aveva suscitato una fierissima irritazione. Avrebbe preso a due mani lo strapunto di paglia ballinato in un angolo e lo avrebbe scagliato fuori, con le tavole e i trespoli che lo sorreggevano. E fuori quel torchio guasto delle olive, fuori seggiole e casse e capestri e bardelle e bisacche. Solo gli era piaciuto riveder nel muro l'impronta degli sputi gialli di tabacco masticato che, stando a giacer sul letto, era solito scaraventare alla faccia dei nemici della patria, sanfedisti e borbonici. Più volte la lusinga degli antichi ricordi aveva cercato di riaffascinarlo, ma più volte, dalla porta aperta, i lunghi filari della vigna, con gli alberetti già verzicanti, sparsi qua e là, nel silenzio attonito di certe ore piene e di smemorato abbandono, gli avevano per un momento ricomposto la visione, quasi lontana, di quel mondo per cui, fino a poco tempo addietro, vagava nei dì sereni, gonfio d'orgoglio, da padre eterno, lisciandosi la barba. D'improvviso, ogni volta, l'anima, che già s'avviava affascinata da quella visione, s'era ritratta all'aspro e fosco ronzare di qualche calabrone che, entrando nella stanza, lo richiamava con violenza al presente e rompeva il fascino e sconvolgeva la visione. Che fare? Che fare? Come vedersi più in quei luoghi, testimoni della sua passata esaltazione? Come più attendere alle cure pacifiche della campagna, mentre sapeva che tutta la Sicilia era sottosopra e tanti vili rinnegati si levavano ad abbattere e scompigliare l'opera dei vecchi? Da anni e anni, tutti i suoi pensieri, tutti i suoi sentimenti, tutti i suoi sogni consistevano dei ricordi e della soddisfazione di quest'opera compiuta. Come aver più requie al pensiero che essa era minacciata e stava per essere abbattuta? Contro ogni seduzione delle antiche e tranquille abitudini si vedeva costretto attratto dalla sua logica ingenua a riconoscere che era debito d'onore per quanti come lui portavano al petto le medaglie in premio di quell'opera a correre ora in difesa di essa. La vecchia guardia nazionale, la vecchia guardia, tutti i veterani a raccolta. Mauro Mortara, con occhi atroci, gonfi e rossi dal pianto, per poco non era saltato addosso a Don Cosmo, che, passeggiando per il corridoio, s'era fermato stupito, dapprima a ammirarlo in quello stato, e aveva poi cercato di trattenerlo e di calmarlo. «Non sapessi che vostra madre fu una santa! Direi che siete un bastardo!» gli aveva gridato, quasi con le mani in faccia. Don Cosmo non s'era scomposto, se non per sorridere mestamente, tentennando il capo in segno di commiserazione. E gli aveva domandato dove volesse andare, contro chi combattere alla sua età. Mauro se n'era scappato senza dargli una risposta. E veramente, giù, nella sua stanza a terreno, aveva cominciato a darsi attorno per la partenza. Alla sua età? A sangue della Madonna, che età? Si parlava d'età a lui. Dove voleva andare? Non lo sapeva. Armato, pronto a qualunque cimento, sarebbe salito a Girgenti a consigliarsi e accordarsi con gli altri veterani. Con Marco Sala, col Cerauli, col Trigona, con Mattia Gangi, che certo come lui si avevano ancora sangue nelle vene. Dovevano sentire il bisogno d'armarsi e correre in difesa dell'opera comune. Se i nemici s'erano uniti, raccolti in fasci, ma perché non potevano unirsi e raccogliersi in fascio anche loro, della vecchia guardia? I soldati non bastavano. Bisognava dar loro mano forte, sciogliere con la forza quei fasci, cacciarne via tutti quei cani a fucilate, se occorreva. Certo c'erano i preti sotto, che fomentavano, e anche la Francia dicevano che mandava i denari sotto mano per smembrare l'Italia e rimettere in trono a Roma il Papa. E chissà che scoppiata la rivoluzione non volesse sbarcar da Tunisi in Sicilia. E come rimanere lì con le mani in mano, senza nemmeno tentare una difesa, senza nemmeno farsi vedere dagli antichi compagni e dir loro «sono qua». Bisognava partire, e partir subito. Sì, domani sarebbe andato incontro a quegli assassini. Lo avrebbero sopraffatto e ucciso, ma sì, questo voleva, se la distruzione doveva compiersi. Che valore avrebbero più avuto altrimenti le sue medaglie? Bisognava morire per esse e con esse. E se le sarebbe appese al petto domani, correndo incontro ai nuovi nemici della patria. Perché la Sicilia non doveva essere disonorata, no, non doveva essere disonorata di fronte alle altre regioni d'Italia che si erano unite a farla grande e gloriosa. Il giorno dopo, con l'enorme berretto villoso in capo, tutto affagottato e imbottito di carte e di reliquie, le quattro medaglie al petto, lo zaino dietro le spalle e armato fino ai denti, s'era presentato a Don Cosmo per licenziarsi. E sarebbe partito senza dubbio se insieme con Don Cosmo non si fosse adoperato in tutti i modi a trattenerlo Leonardo Costa, sopravvenuto da Porto Empedocle. Licenziatosi dal salvo dopo la morte del figlio, ricaduto nella misera e in certa condizione di sorvegliante alle stadere, Leonardo Costa aveva accettato, più per non vedersi solo che per altro, l'offerta pietosa di Don Cosmo di venire ogni sera da Porto Empedocle a cenare e a dormire a Balsania. Il cammino Non era breve né facile al buio, le sere senza luna, per quella stradella ferroviaria ingombra e irta di brecce. Dopo la sciagura, una stanchezza mortale gli aveva reso le gambe gravi, come di piombo. Più volte s'era veduto venire incontro minaccioso il treno, e più volte aveva avuto la tentazione di buttarcisi sotto e finirla. Quando giù alla marina non trovava lavoro, se ne risaliva presto alla campagna e, per suo mezzo, da un po' di tempo, le notizie a Balsania arrivavano senza ritardo. Se quel giorno non avesse recato quella dello sbarco a Palermo del corpo d'armata, che in un batter d'occhio avrebbe certamente domato e spazzato la rivolta, né lui né Don Cosmo sarebbero riusciti a trattenere Mauro con la forza. A calmarlo ancor più era poi venuta la notizia della proclamazione dello stato d'assedio e del disarmo. Nemmeno per ombra gli era passato il dubbio che l'ordine di consegnare le armi potesse riferirsi anche a lui, o che potesse correre il rischio d'essere tratto in arresto se fosse salito alla città armato. Le sue armi erano come quelle dei soldati. Il permesso di portarle gli veniva dalle sue medaglie. Le notizie recate dopo dal Costa avevano fatto sull'anima di lui quel che, su una macchia già arruffata dalla tempesta, suol fare una rapida vicenda di sole e di nuvole. S'era schiarito un poco, sapendo che a Roma Roberto Auriti era stato scarcerato, quantunque soltanto per la concessione della libertà provvisoria, e che il fratello Giulio aveva condotto con sé a Roma la sorella e il nipote, e s'era scombuiato alla rivelazione inattesa che Landino, il nipote del generale, colui che ne portava il nome, era tra i caporioni della sommossa e che era fuggito da Palermo dopo la proclamazione dello stato d'assedio per sottrarsi all'arresto. Dopo questa notizia s'era messo a guardare con cipiglio feroce Leonardo Costa, appena lo vide arrivare stanco e affannato da Porto Empedocle. L'ansia di sapere era fieramente combattuta in lui dal timore rabbioso che, a cuor leggero, quell'uomo lo costringesse ad armarsi e a partire da Balsania. Da che era stato sul punto di farlo, conosceva per prova quel che gli sarebbe costato staccarsi da quella terra, strapparsi da tutti i ricordi che ve lo legavano, abbandonar la custodia del Camerone, la sua vigna, i suoi colombi, gli alberi, che per tanto tempo avevano ascoltato i suoi discorsi. L'ultima notizia che il Costa recò nuova fu tra i lampi, il vento e la pioggia di una serataccia infernale. Leonardo Costa arrivò in uno stato miserando, tutto scompigliato dal vento, con l'acqua che gli colava a ruscelli dal cappotto, con tre dita di fango attaccato agli scarponi. Non tirava più fiato e non poteva più tener dritta la testa dalla stanchezza. Mauro, per ricetta, gli fece subito trangugiare un bicchierone di vino, opponendo alla resistenza la solita esclamazione: «Oh, mala santissima, e lasciatemi servire!» Don Cosmo s'affrettò a condurselo in camera e lo aiutò a cambiarsi d'abito, facendogliene indossare uno suo che gli andava molto stretto, ma almeno non era bagnato. Intanto Mauro aveva portato in tavola e gridava dalla sala da pranzo: «Santo diavolone, ma venite o non venite?» Quando vide comparire l'uno e l'altro con due visi stralunati, si mise in apprensione e domandò aggrondato: «Ma che altro c'è?» Nessuno dei due gli rispose. Don Cosmo, invece, domandò al Costa: «E Ippolito? Ippolito?» «Dormiva», rispose quello. «Alle tre da notte dormiva. Ma dice che, quando l'uomo di guardia, costretto ad aprire il cancello, corse alla villa ad avvertire...» «Parlate di Don Landino», cacciandosi tra i due furiosamente. E tiedeme, che cos'è? Ma no, che Don Landino, gli rispose il Costa, mostrando sul volto una triste gaiezza. Gli hanno fatto l'ultima a quel degno galanduomo che è stato qua un mese a pestarvi la faccia. So che voi lo amate quanto me. Il salvo, e già. E il Costa alzò un piede come per darlo sul collo del caduto e seguitò. Sua sorella, la moglie del principe, ha preso la fuga questa notte col deputato Capolino. La fuga? E come la fuga? E come? Ci vuole poco. Quella è venuta a pigliarselo con la carrozza e sono partiti di notte tempo con la corsa delle tre per Palermo. E certo che si erano accordati avanti. Don Cosmo, ancora stralunato, mormorava tra sé in disparte. Povero Ippolito, povero Ippolito. Gli sta bene, corse a gridargli Mauro in faccia. Mescolarsi con una tal razza di gente, aggiunse il Costa con una smorfia di schifo. Del resto, sa, se Don Cosmo una certa mortificazione, certo io non dico di no, ma lo scandalo è grosso. E non si parla d'altro, c'è gente alla marina. E ma dopo tutto, già non la trattava nemmeno la moglie. Dice che dormivano divisi e che a sentir le male lingue, quel cagliostro, insomma, dice che se la piglia com'era prima del matrimonio. E quando l'uomo de guardia corse alla villa ad annunziare la fuga e il cameriere andò a svegliare il principe, dice che egli non alzò neanche la testa dal cuscino. E rispose al cameriere: ah sì, buon viaggio, penserò domani ad averne dispiacere quando mi sarò levato. Don Cosmo negò più volte energicamente il capo e aggiunse: non sono parole di Ippolito codeste. E per conto mio, riprese il Costa, sedendo con gli altri a tavola e cominciando a cenare, che vuole che le dica? Mi dispiace per il principe, ma c'ho gusto, un gran gusto per l'onta che ne avrà il fratello. Ah sì, Don Cosmo, io non so davvero perché vivo. Vorrei salvarmi l'anima, glielo giuro, vorrei darle tempo di superare la pena perché almeno in punto di morte potesse perdonare e salirsene a Dio. Ma no, Don Cosmo, la pena è più forte e se mangia l'anima. L'odio me cresce e se va più rabbioso di giorno in giorno. E allora dico, perché non sarebbe meglio ammazzare prima lui e poi me e farla veneta? Forse, mormorò Don Cosmo, gli fareste un regalo. Ecco ciò che mi tiene, esclamò il Costa. Perché sarebbe un regalo anche per me. Mangiate e non piangete, disse Mauro. E abbiate pazienza, Don Mauro, gli disse allora il Costa, forzandosi a sorridere. Nei vostri piatti, per il palato mio, ci manca sempre un tantino di sale, qualche lacrimuccia e condimento. Don Cosmo, intanto, assorto, mirando attentamente un pezzetto di carne infilzato nella forchetta sospesa, diceva fra sé: come due ragazzini. Così tutte le cose, sospirò Don Cosmo, mettendosi a passeggiare per la sala, e seguitò, fermandosi di tratto in tratto. Una sola cosa è triste, cari miei, aver capito il gioco. Dico, il gioco di questo demoniaccio beffardo che ciascuno di noi ha dentro, e che si spassa a rappresentarci de fuori come in realtà ciò che poco dopo egli stesso si scopre come una nostra illusione, deridendoci degli affanni che per essa ci siamo dati e deridendoci anche, come avviene a me, del non averci saputo illudere, poiché fuori di questa illusione non c'è più altra realtà. E dunque non vi lagnate, affannatevi e tormentatevi senza pensare che tutto questo non conclude. Se non conclude, è segno che non deve concludere e che è vano dunque cercare una conclusione. Bisogna vivere, cioè illudersi, lasciar giocare in noi il demoniaccio beffardo finché non si sarà stancato e pensare che tutto questo passerà. Passerà. Senza curarsi del fango della strada, dove i suoi stivaloni ferrati affondavano e spiaccicavano, con gli occhi aggrottati sotto le ciglia e quasi chiusi, tutto il viso contratto dallo sdegno, un agro bruciore al petto e la mente occupato da una tenebra più cupa di quella che gli era intorno, Mauro Mortara intanto era più di un miglio lontano da Valsania. Andava nella notte ancora agitata dagli ultimi fremiti della tempesta, investito di tratto in tratto da raffiche gelate che gli spruzzavano in faccia la pioggia stillante dagli alberi di qua e di là dalle muricce lungo lo stradone. Andava curvo, a testa bassa, il fucile appeso a una spalla, le due pistole ai fianchi, un pugnale col fodero di cuoio alla cintola, lo zaino alle spalle, il berretto villoso in capo e le medaglie in petto. Saliva verso Girgenti, ma voleva andare più lontano, lasciare a un certo punto lo stradone e mettersi per la linea ferroviaria, attraversare una breve galleria, sboccare in Valsollano e di lì, nei pressi della stazione, avviarsi per un altro stradone al paese di Favara, ove, in un poderetto di là dall'abitato, viveva un suo nipote contadino, figlio di una sorella morta da tanti anni, il quale più volte gli aveva offerto tetto e cure nel caso che, infermo, avesse voluto ritirarsi da Valsania. A 68 anni se ne partiva povero, senza neppure un soldo in tasca, con la sola ricchezza di quelle sue medaglie al petto. Ma appunto perché questa sola ricchezza aveva cavato dall'opera di tutta la sua vita, sciocco, poteva dire a quel nipote, tu sei padrone di tre palme di terra e se te ne scosti d'un passo non sei più nel tuo. Io invece sono qua, sempre nel mio, ovunque posi il piede, per tutta la Sicilia. Perché io la corsi da un capo all'altro, per liberarla dal padrone che la teneva schiava. Preso così lo slancio, la sua esaltazione crebbe di punto in punto, fomentata, per un verso, dal cordoglio d'essersi strappato per sempre da Valsania, e per l'altro, dal bisogno di riempire, con la rievocazione di tutti i ricordi che potevano dargli conforto, il vuoto che si vedeva davanti. Rideva e parlava forte, e gestiva senza badare alla via. Rideva al binario della linea ferroviaria, ai pali del telegrafo, frutti della rivoluzione, e si picchiava forte il petto e diceva: ma che me ne importa? Io la Sicilia, un mare tandesse, ma vedeco la Sicilia. Non era per la Sicilia, ma se la Sicilia non voleva. La Sicilia si mosse e disse all'Italia: eccomi qua, vengo a te. Muovete tu dal Piemonte col tuo re, io vengo da qua con Garibaldi e tutti e due ci uniremo a Roma. Mara Sandesse, ma lo so, la Spromonte, ragione del Stato, lo so, ma la Sicilia voleva far prima di qua, sempre la Sicilia. E ora quattro canaglie hanno voluto disonorarla, ma la Sicilia è qua, e qua con me. La Sicilia, che non si lascia disonorare, è qua con me. E si trovò ad un tratto davanti alla breve galleria che sbocca in Valsollano. Dal cantoniere di guardia ebbe notizia che, nonostante la proclamazione dello stato d'assedio, alla Favara tutti i soci del fascio disciolto nelle prime ore della sera si erano dati convegno nella piazza e avevano assaltato e incendiato il municipio, il casino dei nobili, i casotti del Dazio, e che gli incendi e la sommossa duravano ancora, e già c'erano parecchi morti e molti feriti. Ah sì, fremette Mauro, ancora! E si svincolò dalle braccia di quel cantoniere, che voleva trattenerlo, vedendolo così armato, per salvarlo dal rischio a cui si esponeva d'essere catturato da quei soldati. Io? Dai soldati d'Italia? Io? E corse per unirsi a loro. Una gioia impetuosa, frenetica, gli ristorò le forze che già cominciavano a mancargli, ridiede l'antico vigore alle sue vecchie gambe garibaldine, l'esaltazione diventò delirio. Sentì veramente in quel punto d'esser la Sicilia, la vecchia Sicilia che s'univa ai soldati d'Italia per la difesa comune contro i nuovi nemici. Divorò la via, tenendosi a pochi passi da quelle due compagnie che, a un certo punto, per l'avviso di alcuni messi incontrati lungo lo stradone, s'erano lanciate di corsa. Quando, alla prima luce dell'alba, tutto insaccherato da capo a piedi, trafelato, ebbro della corsa, stordito dalla stanchezza, si cacciò coi soldati nel paese, non ebbe tempo di veder nulla, di pensare a nulla. Travolto da una fitta sassaiola, in uno scompiglio furibondo, ebbe come un guazzabuglio di impressioni così rapide e violente da non poter nulla avvertire altro che lo strappo spaventoso di una fuga compatta che si precipitava urlante, un rimbombo tremendo, uno stramazzo e la piazza, come schiantata e in fuga anch'essa dietro gli urli del popolo che la disertava, appena il fumo dei fucili si diradò nel livido smortume dell'alba, parve agli occhi dei soldati come trattenuta dal peso di 5 corpi inerti sparsi qua e là. Un bisogno strano, invincibile, obbligò il capitano a dare subito ai suoi soldati un comando qualunque, purché fosse. Quei 5 corpi rimasti là, traboccati sconciamente in una orrenda immobilità sulla fanghiglia della piazza striata dall'impeto della fuga, erano alla vista di una carezza insopportabile. E un foriere e un caporale al comando del capitano si mossero sbigottiti per la piazza e si accostarono al primo di quei 5 cadaveri. Il foriere si chinò e vide che esso, caduto con la faccia a terra, era armato come un brigante. Gli tolse il fucile dalla spalla e, levando il braccio, lo mostrò al capitano. Poi diede quel fucile al caporale e si chinò di nuovo sul cadavere per prendergli dalla cintola prima una e poi l'altra pistola, che mostrò ugualmente al capitano. Allora questi, incuriosito, sebbene avesse ancora un forte tremito a una gamba e temesse che i soldati se ne potessero accorgere, si appressò anche lui a quel cadavere e ordinò che lo rimuovessero un poco per vederlo in faccia. Rimosso, quel cadavere mostrò sul petto insanguinato 4 medaglie. I 3 allora rimasero a guardarsi negli occhi, stupiti e sgomenti. Chi avevano ucciso?